Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Ce lo dicevano per gli 80 euro, non troverete mai le coperture. Ce lo dicevano per l'IRAP nel 2015, se si eliminano gli sprechi della pubblica amministrazione. L'Italia non soltanto riparte, ma è in condizione di buttare giù le tasse. Stare insieme a te è come l'anno scorso, sul mare col pattino. Se sono qui è per cercare di rispondere alle esigenze degli italiani, non di Fassina, Bersani, D'Alema, della minoranza del PD. Che peraltro chiedono rispetto, lei l'ha definita la tribù dei musilunghi. Io dico soltanto che è arrivato il momento, una volta per tutte, di buttare giù le tasse in questo paese. Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. E come l'anno scorso, sul mare col pattino. E a Crocetta in Sicilia e a Marino a Roma che cosa dice? Si smetta tutti i giorni di guardare strani e complicati giochi politici. Se sono in grado di governare, governi. Se no che vadano a casa. Ma non è possibile continuare con una telenovela continua, resta non resta, va non va. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, come bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima. Scusate se il clima è un po' prevacanziero, ecco, mettiamola così. È l'ultima puntata di 24 mattino, è l'ultima puntata del Parlamento, ma a leggere i giornali il clima prevacanziero c'è, perché c'è... Non andiamo a Rio de Janeiro, però vi tranquillizziamo. Il clima prevacanziero c'è anche un po' sui giornali, cioè quando Andrea Scanzi fa tutto un articolo sugli italiani in sosta nell'autogrill, voi capite che più o meno il clima è quello, Ma non solo, hanno scoperto una nuova terra, questa è una cosa importante, la NASA, dista solo 1400 anni luce, si chiama Kepler 425b, e ovviamente è chiaro la banalità più totale, qualche giornale si esercita su chi spedireste sulla nuova terra. Beh, Libero ha deciso i profughi, gli integralisti islamici, i profughi con la Boldrini, gli integralisti islamici, Fini, Travaglio e tutti i tedeschi. Ma io che da due giorni dico darei le chiavi ad Angela Merkel del nostro paese, adesso su Libero mi ci mandano tutti i tedeschi. E capite, il clima è un po' prevacanziero. E poi è partito il dibattito. No, vi prego, questa sulle tasse. Ecco, Renzi era al TG5. Sulle tasse il dibattito adesso si sposta così. Va bene le tasse, ma forse prima le tasse sul lavoro che le tasse sulla casa. Prima di qui che alle imprese. Prima alle imprese che ai pensionati. Prima ai pensionati che a tutti noi. Risultato, lasciamole tutte così le tasse, che va bene, va. Allora, Milan, non tornare più, la tua noia mortale uccide. Ringrazio Max, anche a te buone vacanze, ovviamente alle 6:32 minuti, questo è 24 mattino, l'ultimo Parlamento della stagione con Lorenzo Nespoli è qui in redazione. Il ministro Boschi va a prendere un caffè, poi ci vediamo più tardi, forse. Carmelo Lauricella in regia e oggi voglio salutare intanto Vladimir Luxuria, buongiorno, ben ritrovata, come va? Buongiorno, tutto bene. Ma conduci ancora alle 9? Capita o ti sei fermata? Anch'io oggi è l'ultima puntata, no, credo che il clima sarà più o meno questo. È fantastico, il clima è proprio pepe pepe pepe pepe. Ecco, sì sì sì, vabbè. Alle 9 è il J con la farfalla su Radio Capital, ricordate? E poi Vladimir, ieri quando abbiamo sentito Vladimir Luxuria e l'altro ospite, Vladimir ha detto vabbè, un po' il sacro e il profano, se il profano sarebbe Vladimir Luxuria, ovviamente il sacro sarebbe il nostro Mario da un colpo di straccio al banco del bar. Torna, torna, è tornato Marione Adinolfi. Wow, che intro con Ligabue, è bellissimo ragazzi, avevo voglia di vacanza. Vabbè. L'intro del bar Mario è bellissimo. Come stai? Quanti soldoni ti sei giocato sui tavoli da poker di Las Vegas? Sì, hai scelto e merda! Vabbè. Io. Sì. Quanti? Oggi ne giochiamo tutte, insomma. Quanti soldi ti sei giocato sui campi? Niente, ero in giro per il mondo, quindi stavo giocando poco per la vita. Ma dove sei stato? Si può sapere? Sì, un po' ovunque, insomma, l'ho staccato per 4 settimane. Un po' ovunque, che vuol dire? Da Londra a Francoforte in America, insomma, sono stato in America per tutta la vicenda della sentenza della Corte Suprema, insomma, ho scritto per la Croce tutti i giorni, sì, ma sì. Il racconto di quello che accadeva, insomma, in giro per tutti il mondo, i pezzi che Vladimir non si è perso, ovviamente tutti. Beh, qualcuno se l'è letto, qualcuno se l'è. O le hanno ripreso. No, prima lo compravo tutti i giorni all'edicola, adesso non lo trovo più, peccato. Eccolo lì, vabbè, subito la stoccatina di Vladimir Luxuria, non lo trovi più, ecco come va. Vabbè, richiedilo. Allora, dai, visto che tanto lo ha fatto libero, lo possiamo fare anche noi. Cara Vladimir Luxuria, e chi spediresti su Kepler 425-B, cioè la nuova Terra, dove forse c'è vita? Ma no, ma io penso che tutte le persone che ci stanno sulle scatole sono persone che sono importantissime, altrimenti con chi ci sfoghiamo sulla Terra? Cioè, quindi non lo so, chi ci potrei mandare? Dai, qualcuno. Ma no, ma magari come non è per forza una cosa negativa, una nuova vita a colonizzare. Ci mando quelli che sono un po' avari di doccia e prendono i mezzi pubblici a mezzogiorno con quelli che puzzano, i loro afrori, ecco, lì ce li manderei perché diciamo c'è più spazio per poter diffondere gli afrori nello spazio siderale. Ecco. E ne manderesti tanti? Sono tanti? Abbastanza. Quelli che puzzano, dai, quelli che puzzano. Vabbè, quelli che puzzano. Marione Adinolfi, tu chi manderesti lì sulla nuova Terra? L'elenco è abbastanza sterminato, deve essere cioè, quei magri che ci fanno sentire in colpa, noi che siamo un po' in carne. I magri, fantastico. I magri, pensa che bello, tutti i magri via. Tutti i magri via. Improvvisamente sembriamo quelli normali noi, insomma, questa è una cosa. Beh, bellissima questa, no? è geniale. Un primo passaggio, diciamo, lo farei così. Poi c'è una barista che fa un cappuccino pessimo sotto casa mia, insomma, sinceramente se andasse non sarebbe niente male. Vabbè, se Luxuria vuole fare un viaggio, eccola, dai. Vabbè, in mezzo ai magri, esatto, con i magri potresti che ci finisce. Anche ho visto le foto di nuovo che dice un giornale che dice che ha messo sulla pancetta e sono molto dispiaciuto. No, l'ho visto. Foto da qualche parte. Ma chi è questo giornale che si permette? Il settimanale si chiama Nuovo e veramente è andata a rompere scala. No, fa il bagno. No, ma com'è possibile? Ma Vladimir, è vera questa cosa? Ho messo su 2 chili, ecco. Invece io sono preoccupata perché... Invece io sono preoccupata perché secondo me Mario è un po' sciupato ultimamente, quindi... Questo mi preoccupa di più. Come vedete, si vogliono molto bene. Si vogliono molto bene Vladimir Luxuria e Mario Adinolfi. Vabbè, però intanto tu, Mario, la manderesti Vladimir Luxuria. Vladimir è stata più gentile, devo dire. Non ti ci manderebbe. Sì. Esatto. Vabbè, dai, in realtà i temi che sono sui giornali sono i soliti, che continuano. L'altra volta Vladimir abbiamo chiesto la versione su Crocetta. E mi sembra che Vladimir tu la difendevi abbastanza. Nel senso, lo difendevi a dire. Bah, insomma, non sembra che questa intercettazione ci sia, vediamo. Però ieri Crocetta è comparso in onda in onda. Sentite qui come battaglia con Francesca Barra. Okay. È stato arrestato ed è forse questo il motivo per cui Lucia Borsellino si è dimessa. Ma non per strage, signora! No, certo! Non per strage, ma... signora! Sì, l'hanno arrestato. Non abbiamo però dicono, chiarito il suo rapporto perché con Tutino. Che invece di fare sei nasi per ragioni necessarie e le ha fatte per ragioni estetiche. Mi pare una cosa completamente diversa da queste cose che lei vuole anche insinuare che possono esistere. Eccolo là, insomma siamo un po' arrabbiato. Diceva Crocetta, spiegava nella sua foga che Tutino, questo medico, è stato arrestato perché avrebbe frodato il sistema sanitario nazionale, cioè faceva passare le operazioni estetiche per operazioni di chirurgia importante, insomma di magari ricostruttiva eccetera, e Crocetta si è arrabbiato così. Marione, non abbiamo mai sentito il tuo parere su questa vicenda. No, io non ho simpatia per Crocetta, sono convinto che la stagione delle riforme in Sicilia non sia iniziata con Crocetta, questo la colpa politica grave. Io vi metto insieme un po' Crocetta, Marino, queste vicende di centrosinistra che partono con, diciamo, un'istanza virgolette rivoluzionaria e poi dopo sono estremamente deludenti sul piano della vita quotidiana dei cittadini. Il resto Ho capito, ma è più colpevole o è più vittima o è più, perché sai, cioè c'è stata un'accelerazione dopo che l'Espresso ha raccontato questa storia dell'intercettazione. Sul dato dell'intercettazione bisogna capire il dato reale, c'è o non c'è questa intercettazione, perché questa è una cosa che non è una banalità. Evidentemente non è una banalità. Discutiamo come fosse a prescindere da questo elemento, però prima o poi questa cosa deve essere chiarita, perché o l'Espresso produce le carte e allora deve essere letto da qualche parte questa intercettazione che c'era, o se no non c'è. Ma da questo, dal punto di vista poi del giudizio politico, a me sembra che il PD stia dando un giudizio politico sul suo presidente, cioè non lo comporta più fondamentalmente. Insomma, tendenzialmente quando succedono queste cose in politica ci si mette, perché non hai la fiducia del partito di maggioranza. Tendenzialmente no, ma che non ci sia più l'appoggio a meno politico, che si sa. Non abbia fatto da solo l'eroe, e allora uno dice: vabbè, i siciliani dicono, vabbè, vediamo in lui il sol dell'avvenire. No, a me questo non sembra, parlando con i siciliani. No, vabbè, questo sì. Vladimir, tu ti eri espressa già l'altra volta, adesso a dire, però il dato politico è che, l'abbiamo sentito anche Renzi, o governano o vanno a casa. Vabbè, è chiaro che poi parliamo anche di Marino, vorrò capire da due che abitano a Roma che ne pensate di Roma, se fa davvero schifo come scrive anche il New York Times. Però Luxuria, qua la versione di Crocetta, sì, basta la telenovela, cioè io spero davvero, ecco, sono contento di andare in vacanza così almeno non leggerò le puntate di Crocetta tutti i giorni. Beh, comunque con tutto il rispetto per Renzi, però dichiarare se uno è capace di governare governi altrimenti va a casa è un po', non voglio dire un'autautologia, però insomma che cosa vuol dire? Anche perché loro dicono noi siamo in grado di governare, quindi appunto, quindi in realtà, cioè, la telenovela chi lo va a giudicare? Diciamo che la telenovela non parte dai diretti interessati, da Crocetta, da Marino, perché loro hanno le idee molto chiare, dicono noi rimaniamo fino a quando non c'è qualcuno che ci manda via. Quindi loro hanno le idee chiare, forse la telenovela la fanno più gli altri. Ma la fanno anche un po' i giornali, per carità, ma anche i giornali, anche noi, cioè a raccontare tutti i giorni, e Crocetta rimane, non rimane, e l'intercettazione c'è o non c'è, e politicamente è capace o non è capace, non lo so, cioè se non è capace gli tolgano i voti al Parlamento siciliano e va a casa, e se no rimane e basta, cioè non... Marione, il racconto della politica che tanto ti appassiona, ma dopo un po' basta, è che non si muove mai nulla, non si muove mai nulla. Ma dai. In questo caso, se il vostro qua ha parlato una rumba, Crocetta che è la fine del mondo, ragazzi. Vabbè, allora dai, comunque giudizio. Crocetta, devo dire che ha un linguaggio sempre meraviglioso. Mi rifiuto di offrire le mie carni a famelici carnefici. Sì, sì, senti questa anche sulla mafia. La mafia, senti, Crocetta. Ritengo di essere uno di quelli che la mafia lo dovrebbe denunciare per mobbing. La mafia. Per tutto quello che ho combinato. Mamma mia, la mafia mi dovrebbe denunciare per mobbing. Buongiorno, procuratore, sono la signora mafia. Vorrei denunciare il governatore Crocetta per mobbing. Ecco, questo dovrebbe... Ma poi ha detto anche... è l'attentato nei miei confronti, è l'attentato peggiore dal 1946. Che se io mi so, dalle 5:30 che mi sto interrogando, che è successo nel 1946? Adinolfi, tu che sai tutto, è l'attentato peggiore successo dal 1946, quello nei miei confronti, della storia repubblicana, credo voglia dire. Insomma, sì, certo, ma voglio dire, ma che vuol dire l'attentato del 1946? Senti, sì, comunque, sentite, sentite. Mi sono rifiutato di offrire le carni in pasto a famelici e rapaci carnefici. Eccolo qua. Ecco. Io sono certo che tutto questo passerà alla storia come una storia infame. La vicenda di poteri occulti che minacciano la democrazia. Vabbè, insomma, Gesù Cristo, mi sono rifiutato di offrire le carni, le mie carni, capito? Mario, ti appare un po'... Lo snodo della storia infame però è interessante, perché, attenzione, qui, ripeto, c'è un giornale, che non è un giornale qualsiasi, ma una storia qualsiasi, che tira fuori un'intercettazione che la procura dice non esistere. Ecco, questa è chiaro. Della storia infame, allora del sito dei poteri occulti, non è che mancano qui nomi e cognomi. No, è chiaro. Infatti ha chiesto 10 milioni all'Espresso, però si difende. Però la domanda che vi voglio fare è questa. Allora, Vladimir Luxura, il New York Times scrive che Roma fa schifo, pare addirittura che, sapete quelle società che fanno il car sharing, car to go, enjoy, hanno vietato di lasciare, hanno detto che le persone che utilizzano queste macchine non possono più lasciarle in alcuni quartieri perché ci sono stati troppi atti vandalici nei confronti delle macchine, gomme sostituite, pneumatici. Allora, Vlad, ma fa schifo così davvero Roma? Allora, vabbè, io non dirò mai Roma fa schifo, perché è una città che io amo, dove vivo, ed è una città bellissima, quindi non lo dico, non lo direi mai. Certo che c'è un problema per quello che riguarda Roma dei mezzi pubblici, perché è veramente una cosa assurda che per fare una metropolitana ci vuole una vita, e che poi si scopre che i lavori vanno lenti perché qualcuno ci mangia sopra, che sia una città sporca è innegabile, che sia una città dove ci sono dei quartieri con problemi di sicurezza, non avevo bisogno di leggere il New York Times per capirlo, a volte mi basta semplicemente affacciarmi da casa mia. Quindi al di là di come è stato tradotto questo titolo, il problema di Roma c'è. Secondo me questo titolo, adesso tradotto bene, tradotto male, non si sa, di Roma paradossalmente sveglierà porterà più simpatia verso Marino, perché io credo, a volte noi siamo così. Noi vogliamo avere il diritto di parlare male della nostra Italia o della nostra città, ma appena c'è qualcuno che ce la tocca, la difendiamo. Appena siamo all'estero tutti italiani, tutti innamorati dell'Italia, potrebbe portare qualcuno a dire no, come vi permette da dire che Roma fa schifo? Quindi non lo so. Tra l'altro Marino fa un'intervista a Repubblica, utilizza sempre le stesse cose: ho resettato tutto, ora voglio tempo per curare il malato. Però pone una domanda, Mario Adinolfi, banale, e dire: quando vedo un cartone per la pizza per terra, mi chiedo, è la spazzatrice che non è passata la colpa, o quello che il cartone l'ha buttato lì per terra? Ecco, questa domanda Marino se la fa. Che domanda dobbiamo fare, ragazzi? Roma fa schifo. Blog che mi pare si chiama così, Roma fa schifo, che racconta tutte gli obbrobri di questa città, che è incredibile sia trattata così dai romani, e questo è l'elemento nodale, è trattata così male dai romani. La storia di Enjoy e Cartugo è impressionante, perché Enjoy e Cartugo, questi due servizi di car sharing, ci sono a Roma e a Milano, e le questioni che vivono a Roma lo dicono chiaramente, esplicitamente, le vicende assurde di utilizzo che vengono fatte, folle, di truffe, di carte prepagate non pagate, di vergogna, sono di Roma, non di Milano, cioè avvengono a Roma. Storie sul tifo calcistico che avvengono a Roma, dove si spara ad alzo zero ai ragazzi, perché è successo questo una finale di Coppa Italia, dove arrivano i Tottenham e vengono aggrediti per ragioni definite. Dove vengono ogni tempo, c'è Vladimir che si sta arrabbiando. Non è che mi sto arrabbiando, dice un po' di orgoglio, un po' di orgoglio per la tua città. Voglio ricordare che uno degli ultimi, un episodio che ha fatto veramente schifo, per quello che riguarda il calcio sono stati gli hooligans che venivano da fuori, che sono venuti a Roma a devastare mezza città. Ma a Roma lo consentono. Io no, dico una cosa, dico è giusto criticare, però dire Roma fa schifo secondo me non mi piace. Ma questo è il giudizio di Mario. Ieri ero con il presidente del CONI Malagò, che era preoccupato per questo titolo, per la candidatura di Roma, al 2024, e che ci vede anche un po', diciamo così, una sorta di bocciatura da parte dei poteri forti. Le Olimpiadi. Però aspettate. Una città come questa, trattata così, una città così, bello, travolgentemente bella. Non questionate su Roma, attuali, questionate su Roma. Aspetta, devo andare al traffico, poi vi faccio sentire la segreteria, che è un po' il meglio o il peggio, se volete, dell'anno. Sentite bene, anche perché c'è uno che dice una cosa sulla quale poi a Vladimir Luxure devo chiedere una roba. Quando mando il traffico, godo come un maiale. 24 mattino. Io sono 30 anni e mi alzo alle 4 e mezza, ma io vado a rompere coglione al centro per voi, La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a zappa Lucampo dalla mattina alla sera, e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro, e a cena una minestra scunnita. L'orgasmo del maiale dura 5-10 minuti. È per questo che si dice godo come un maiale. Per i vitalizi prendono migliaia di euro al mese, dico facciamo ricorso, senza altro ricorso. Porci, maiali, schifosi. Milan, grata qui, per in ferie, Parassiti, ladri, ingrati, cornuti e delinquenti. C'è stato un tentativo di intrusione in casa mia, hanno rotto la porta, sono andato giù di corsa, se ne beccavo qualcuno facevo un fuoricampo con qualche testa. Se c'è uno che tenta di entrare in casa mia, lo apro come un branzino. Uno o si difende o si mette a 90 gradi all'ammarazzo. Io non ho i forconi, ma ho 3 matterelli. Se qualcuno ne avesse bisogno, 2 li metto a disposizione. Uno me lo tengo. Se organizzate, chiamatemi. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei, cretino d'un Milan. Alessandro Milan! Ma che cazzo è Alessandro Milan? Vabbè, questo è il peggio o il meglio, Mariola Di Rolfi, il meglio o il peggio? Tu che hai lanciato il famoso grido di battaglia, grido gli di adorabili, questo non era male. Ma come faremmo senza? Come faremmo senza? Te lo ricordi il grido di battaglia? L'hai lanciato? Pubblico di merda, sì, me lo ricordo. Ma non è mio, è di Nanni Moretti. Sì, lo so che è di Nanni Moretti, lo so. Pubblico di merda. Eccolo. Pubblico di merda! Pubblico di merda! Vladimir, così vede la nostra segreteria telefonica, voi vi rendete conto? Ma tra l'altro ha lanciato questa grande iniziativa Marione, cioè a dare il suo cellulare in diretta per svuotare la segreteria telefonica e mandare insulti. Ma vuoi ancora, Marione? No, basta ragazzi, no, la faccio tranquilla perché ce l'ha veramente dura a un certo punto. Gente che chiamava tutte le ore, ovviamente per dire delle cose simpatiche. Mi ha colpito il messaggio quello sul maiale, devo dire. Ma quello era vero, era un lavoratore. Il maiale, cos'è, gode solo 5 minuti, quindi non bisogna più dire. Se io sono stato al museo del pene di Reykjavik, perché esiste il museo del pene. Cos'è il museo del pene? Esiste un museo, si chiama il museo del pene, e si trova a Reykjavik, ci sono tutti i peni che vengono esposti dei vari animali. E il pene che mi ha impressionato di più è il pene del maiale, perché ha una forma strana, è tipo a tirabuscione, non so, a cavatappi. A cavatappi, quindi ho immaginato che. Ma questo era un lavoratore vero, cioè di lavoro, lui lavora e fa l'inseminatore, come si può dire, cioè raccoglie lo sperma dei maiali, e ci ha raccontato proprio dei dettagli, e dice che l'orgasmo nel maiale dura 5-10 minuti a volte, proprio l'orgasmo. Alcuni lui uomini anche meno, da 5 minuti, Vladimir, 20 minuti. No, ma proprio la fase la fase finale. E quindi da cui godo come un maiale. Questo Okay, proprio si dice così proprio perché. Però c'era un messaggio che citava Marrazzo. Allora, io ho letto un'intervista su Oggi, caro Marione, perché non solo il giornale che dici tu che ha pubblicato le foto. Su Oggi, sai cosa ha dichiarato Vladimir Luxurian? No, non lo so. Ha detto che all'epoca dello scandalo di Marrazzo confidò proprio Oggi di essere legata a un parlamentare di centrodestra. Non te lo ricordavi più. Ma figurati. Tu non puoi uscire da qui senza che ci dici il nome. Ma figurati, sei veramente, guarda, proprio un gossiparo, guarda, proprio. Vabbè, ho capito, l'ho letto, che devo fare? Non te lo chiedo. Guarda, non te lo dico perché sono talmente brutta, sì, con la pancetta, che vengo pubblicata come una racchia di uovo, che sarebbe assolutamente un discredito per lui che si venga a sapere che un uomo possa stare con un cesso simile come me. Ma con un parlamentare, ma di Nolfi, ma non è che eri tu in Parlamento? Era notizia, no, non era a destra, io ero... Ah, perché ecco, era di centrodestra, quello... Però questa è una super notizia, in effetti, me la sono persa, come mai? Infatti è una super notizia. Su Oggi, ma quando uscirà? È l'ultimo numero di Oggi. Ah, una cosa enorme, insomma, proprio in Parlamento, insomma. In Parlamento. Parte in cui Vladimir era parlamentare. Certo, sì. In quella legislatura, la quindicesima? Penso di sì, Vladimir, non so, almeno questo ce lo puoi dire. Ragazzi, ma ci sono così tante notizie interessanti, cioè, tante cose di cui l'Italia si preoccupa, perché parlare di queste cose così futili? Non ce lo dice, però qua io tanto tra un minuto ho finito, la rassegna stampa eccetera, ma il Parlamento va in ferie, torneremo il 31 agosto, il 30, quando è? Lunedì 30, Vladimir, 31, quando riprendi anche tu, ma non è che andiamo in ferie insieme? Perché questa poi è la notizia, andiamo in ferie. Io e Vladimir Luxure. No, che è sempre Vladimir, basta. Andiamo in ferie, sei emozionata. Caduta la linea, che devi fare? Marione, io vado in ferie, tornerò e riscoprirò una Juve che vincerà con sempre 25 punti di distacco il campionato. Alla fine del giro d'andata. Vuoi fare già il pronostico adesso? Vuoi fare il pronostico? Ma dai, no, come finisce quest'anno, per cui... Ah, vabbè. Però è bella la Juve quest'anno. È bella. Qualcuno mi ha detto non mettere più la maglia del Barcellona se perde. L'anno prossimo se perdete con Real la finale metterò la maglia del Real Madrid, va bene così. Vladimir, era un po' interessante, ci siamo tolti Tevez, Vidal, proviamoci a rendere un po' vediamo se vincete lo stesso di 20 o 25 punti. Sei emozionata, Vladimir, ho detto andiamo in vacanza insieme, ha messo giù una maglietta a strisce, magari però verticale, perché la striscia orizzontale mi ingrassa, quindi se proprio devo scegliere una squadra. Va bene, intanto alle 9 l'ultima puntata del Geco la Farfalla su Radio Capital, io vi devo salutare, buone vacanze. Ma come si fa a ascoltare una persona così di prima mattina? Ma chiuditi a casa e statene a casa. 1, 2, 3, adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Allora, cari ascoltatori, alle 7:17 minuti è l'ultima rassegna stampa della stagione per quel che mi riguarda. Riprenderemo poi il 31 agosto, lunedì, dopo la puntata di Oggi. Si spera, ovviamente, come sempre. E che dire? Oggi vi darò anche le classifiche di Mani sul Volante, della Carta Costa. Intanto vi ricordo che avremo ospiti oggi alle 8:15 Angelo Maria Perrino, il direttore di affariitaliani.it, Chiara Geloni e poi Danilo Toninelli, che fa parte della Commissione Affari Costituzionali del Movimento 5 Stelle, che vuole denunciare qualcosa riguardo ai soldi ai partiti politici. Dalle 8:15, ma andiamo a leggere per l'appunto i quotidiani. In questo venerdì 24 luglio, i titoli: non c'è una notizia che si impone sulle altre, clima un po' vacanziero in alcuni articoli, alcuni, non certo nelle aperture. Il Sole 24 Ore apre sulla mini riforma dei fallimenti, cosa cambia per le imprese? Questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera invece Libia, i gommoni della morte, e poi chiesto riscatto per i quattro italiani rapiti. L'Ilva, per Repubblica, disastro dell'Ilva, anche Vendola nel processo Riva. Così il Messaggero, un maxi processo per il caso Ilva, mentre processo rovente è il titolo del manifesto, e c'è la foto dell'Ilva sullo sfondo. Per il Giornale, nuova tassa sul caldo, i condizionatori nel mirino di fisco e burocrazia, ecco chi dovrà pagare. La Stampa invece, tasse, si allarga il fronte, la casa prima il lavoro. Libero, sciopero contro le vacanze, è l'odio dei sindacati, come ogni estate nei giorni cruciali per il turismo si fermano i trasporti. Mentre il Fatto Quotidiano, riesplode il caso Renzi Letta, il governo mette il silenziatore. Come vedete, ogni quotidiano fa una scelta personale nell'apertura. Io voglio aprire raccontando due articoli, un articolo di cronaca, un'intervista che trovate sia sul Corriere che Repubblica, che mi ha straziato veramente. Non avevo parole nel commentare, non ho parole nel commentare le parole della fidanzatina di Igli. Igli è quel ragazzo albanese che ha confessato di avere ucciso sgozzandolo Ismaele Lulli, 17 anni, tutto questo in provincia di Pesaro. Perché sentite cosa dice Ambera, la ragazza macedone del killer. Sì, è vero, ha ucciso Ismaele, ma lo ha fatto per me. Lo aspetterò per tutta la vita. Già una roba del genere, un titolo del genere sul Corriere della Sera, Agostino Gramigna a pagina 22, ma anche Repubblica. Igli ha ucciso Ismaele perché era geloso, ma sono innamorata, lo aspetterò sempre. E sentite che cosa dice questa ragazza del suo fidanzato assassino. Sì, l'ha sgozzato e non lo giustifico, ma non voleva farlo. Mi rendo conto che non è facile capire, mi si darà della pazza, insensibile, una che vuol comprendere un assassino. Intanto lo amo, è il mio uomo. E poi lo conosco da 4 anni e mezzo, da quando ci siamo fidanzati. È un ragazzo dolce. So bene di che pasta è fatto, conosco il suo cuore. Non è violento. Al che il giornalista del Corriere ha quasi un moto di rivolta, ma gli gridiamo addosso: ha sgozzato un ragazzo indifeso e legato con 2 coltellate. Risponde Ambera: era solo accecato dalla gelosia, certo che non doveva farlo. E poi, come dire, altri particolari, ma servono altre cose dopo queste parole. Ma sì, dice, non ho mai tradito comunque il mio fidanzato, era lui, Ismaele, che quando mi incrociava nel paese dimostrava il suo interesse per me, mettiamola così, eccetera. Comunque, sono stanca di dovermi nascondere, se può, dice al giornalista, faccia sapere al mio Igli che lo aspetterò tutta la vita e che lo amerò sempre. Così sul Corriere, ma anche su Repubblica, parla la ragazza del killer. No, davvero non è che c'è molto da aggiungere o commentare. Allora, cambiamo pagina. Amici di Roma, amici romani, fa davvero così schifo la vostra città, come c'è scritto sul New York Times? Non vanno i trasporti pubblici, sono un mezzo disastro, c'è sporcizia, ci sono le buche, c'è degrado. Fa davvero così schifo? Il New York Times, e si sa quando finisce sul New York Times, è una vicenda che magari già ha risalto e di cui si dibatte in Italia, ha una risonanza internazionale. In prima pagina del New York Times, con la prima del New York Times scrive il libro Il tracollo di Roma diventa globale, ma anche il Corriere della Sera racconta la capitale perduta tra Colosseo chiuso, vandali del car sharing. Questa è una vicenda clamorosa, secondo me. Andrea Garibaldi la racconta pagina 6. A parte la chiusura per uno sciopero sindacale dalle 9 alle 12 del Colosseo ieri, we apologize for the inconvenience, ma insomma è chiuso, c'era un'assemblea sindacale. Ma soprattutto, secondo il blog Roma fa schifo, che è anche abbastanza seguito e che mette in luce tutte le magagne della capitale, Car2Go, cioè la società, una delle società di auto in condivisione, non permetterà più di lasciare le vetture in alcune zone di Roma, in alcuni quartieri. Quali zone? Tufello, Cortina d'Ampezzo, Tuscolano, Prima Valle, Roma 70. Perché, spiega l'amministratore delegato Gianni Martino da Stoccarda, in quelle zone sono avvenuti ripetuti atti di vandalismo. In realtà la versione è: ci sono poca domanda, c'è poca domanda in quei quartieri. In realtà il rischio è che sia proprio legato agli atti di vandalismo nei confronti delle macchine di questa società di car sharing. Si parla di sostituzione di pneumatici, di macchine che sono finite alle officine di Napoli, danneggiamenti plurimi. Ma è davvero così? Siamo a questo livello di inciviltà? Io non lo so, è chiaro che la domanda non può essere generalizzata, come al solito c'è quello che si comporta in maniera retta, in maniera perfetta, in maniera precisa, e c'è il disgraziato tra tutti, ma qua pare che, secondo il New York Times, il degrado sia arrivato a tal punto da finire in prima pagina. Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, si difende. A pagina 29 di Repubblica, devo dire, mette un po' il solito refrain intervistato da Mauro Favale, e cioè le cose che abbiamo già sentito: io ho premuto reset e quindi ho tolto i soldi alla criminalità organizzata che arrivavano dai vertici dell'amministrazione fin dai tempi di Alemanno. Per il cambiamento però occorrono mesi, ormai in buona parte trascorsi. Spero che tra un anno i cittadini di Roma possano rendersi conto di quanto abbiamo fatto. Abbiamo portato la differenziata dal 20 al 45%, abbiamo disegnato 800 percorsi per le spazzatrici che prima uscivano e andavano dove loro volevano andare. Abbiamo trovato l'ATAC in condizioni fallimentari, quindi i trasporti stiamo cercando di risanare. Insomma, tutta una serie di promesse. Poi Marino fa una domanda alla quale effettivamente, rispondendo, non si può che dar a lui ragione in questo caso, e cioè la domanda: Roma difetta in civismo, cioè in senso civico, sindaco? Sono certo che sia importante avere la pulizia migliore nelle strade, ma quando sul marciapiede trovo abbandonate bottiglie di birra o il cartone della pizza, mi faccio una domanda: la colpa è della spazzatrice che non è ancora passata o dell'incivile che ha buttato per terra quello che ha consumato? E su questo Marino ha 100% ragione. Se si trova un cartone di pizza per terra, bisognerebbe andare a farlo mangiare, non la pizza, il cartone, a quello che l'ha buttato per terra. Non c'è niente da dire. Cioè, non è che la città è una fogna, uno butta le cose, tanto passa la spazzatrice, poi se non passano, la spazzatrice non passa. Ah, coglione, hai buttato un cartone di pizza. Questo è il concetto molto, molto basilare. Comunque, Marino, datemi tempo per curare il malato. Questa è la posizione di Marino. Vabbè, dai, guardiamo con ottimismo. Una notizia scientifica importante viene buttata un po' sui giornali in burla, in burletta. La notizia importante è che c'è una seconda Terra. Questa è la scoperta, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, nell'apertura. La NASA ha scoperto un pianeta che gira attorno a un sole, a una stella. Ed è un pianeta che ha le caratteristiche, chiamato Kepler-452b, ha le caratteristiche simili a quelle della Terra. È vero, dista 1400 anni luce, quindi insomma un po' difficile, un po' lungo da raggiungere, è un po' lontano da raggiungere, però ci si chiede, la scoperta scientifica è fondamentale, se possa esserci vita su questo pianeta. E tutti i giornali, addirittura l'Unità, la mette come notizia di prima pagina di apertura: un altro mondo è possibile, con la foto di Kepler 452b a 1400 anni luce. Certo, in burla, beh, Massimo Gramellini oggi si esercita su questo nel suo Buongiorno e raggiunge vette appunto astronomiche. Le sconvolgenti notizie sull'esistenza di un pianeta gemello della Terra stanno provocando reazioni entusiaste, addirittura romantiche. Ma ci sarà Vabbè, si è subito informato un anziano statista milanese. Renzi ha promesso che nella riforma Boschi del sistema solare è prevista, per gli oppositori che cambieranno pianeta, l'abolizione della tassa sulla seconda casa. Ma l'insensibile Merkel lo ha bloccato. Dopo i parametri europei non puoi sfontare anche quelli interstellari. Ma esisterà davvero l'altro mondo? Grillo non ha dubbi, è una sfera di cartone costruita dai massoni in un garage di Houston. Più possibilista Giovanardi, deportiamoci i gay a patto che non possano sposarsi neppure lì. Mentre l'ex ministro greco Varoufakis ha lanciato un appello ai cugini siderali. Avreste qualcosa da prestarmi? La scoperta ha stimolato in Putin un interrogativo filosofico. Serve gas? Lo schivo. Salvini, invece, in diretta a Galassie Unificate con felpa Odissea nello spazio, ha preso le distanze dagli abitatori della Terra Bis. Aiutiamoli a casa loro. Ma se fossimo noi ad avere bisogno di ricovero, l'urlo trasferiamoci lì già rimbomba sul web. Prudenza mista sconforto solo tra i cittadini romani. Come faremo a raggiungere un pianeta che dista 1400 anni luce se non riusciamo a chiudere le porte della metropolitana nemmeno per un chilometro? Eppure l'istinto a migrare fa parte dell'uomo. L'universo è di tutti, ha ricordato il Papa. Immediata la replica del Salvini dell'altro mondo. I terrestri? Li ospiti lui a casa sua. Beh, non male, non male oggi Gramellini. Ma anche Gene Gnocchi in prima pagina sulla Gazzetta. Amarissima sorpresa della NASA alla scoperta del pianeta uguale alla Terra. C'è Blatter anche lì. Vabbè, ma siamo alla carta, no, la carta costa. A mani sul volante, l'articolo che oggi vince le mani sul volante, ma prima la classifica dell'anno. L'articoli che ci fanno più incazzare della giornata, la classifica di tutto l'anno vede vincere il Corriere della Sera con 49 citazioni davanti a Libero con 37, Repubblica 24, Il Giorno e Il Giornale a 18 e poi gli altri giornali. Ma eccoli, li metto sul mio profilo Twitter, le classifiche Alino Milan, potete seguirmi oppure sul sito di radio24.it. ma eccolo il premio mani sul volante di oggi, l'articolo che ci fa più della giornata. Il caso dei dirigenti di Palazzo Chigi, quasi tutti e 300 premiati per merito. Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera racconta, pagina 11, come il 97,7% dei dirigenti, un record planetario, ma planetario anche per Keplero 452B, vincono, cioè ottengono il premio di retribuzione per avere ottenuto i risultati. 97,7% dei dirigenti di Palazzo Chigi. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. This is George Clooney, and I also like listening to 24 Mattino. Oh, grazie a George Clooney per questo endorsement davvero prezioso, importante. Anche lui ascolta 24 Mattino, anche lui ovviamente andrà in ferie con noi. Da oggi, dopo la puntata di oggi, ci risentiremo il 31 agosto. Grazie, thank you George, davvero, per questo appoggio morale. Allora, la politica. Beh, oggi i giornali raccontano un po' le solite cose. La telenovela Crocetta. Ieri Crocetta ha parlato all'Assemblea parlamentare siciliana, ha detto non recedo di un passo, non arretro, non mi dimetto. Contemporaneamente Renzi ha fatto un'intervista al TG5 dicendo lui, Crocetta, ma anche Ignazio Marino, così mettiamo insieme le due cose, come ha fatto Renzi, Crocetta e Marino o governano oppure vadano a casa, ma basta questa telenovela. Ma la telenovela in realtà continua, anche un po' alimentata dai giornali e anche da questo dibattito, c'è questa intercettazione oppure no. Crocetta che ha chiesto 10 milioni all'Espresso, l'Espresso che conferma. La trincea di Crocetta, lasciare è irricevibile, la mafia mi minaccia, anzi dovrebbe denunciarmi per mobbing, ha detto Crocetta, che poi ha aggiunto quello nei miei confronti è il peggiore attentato della storia della Repubblica dal 1946. non lo so, cioè, come dire, ma ci rendiamo conto o che cosa? Comunque, questa è la situazione. È la situazione Crocetta. Dall'altra parte ci sono delle frenesie un po' nel centrodestra, perché ormai, se siete interessati a questi movimenti o sommovimenti, il caso Verdini arriva a una svolta nel Forza Italia. Verdini, addio a Forza Italia e nuovo gruppo. C'è stato un pranzo tra Verdini e Berlusconi nel quale non c'è stato un riappacificamento. Verdini era quello del patto del Nazareno, Berlusconi ha detto il patto del Nazareno con Renzi non va bene più, e anzi ha detto a Verdini in faccia, secondo il Corriere della Sera, se vai con Matteo sei politicamente finito, Verdini, ti rendi conto, davvero pensi che ci sia un futuro per voi? E poi ha aggiunto ai suoi collaboratori Silvio Berlusconi, secondo l'articolo di Paola Di Caro a pagina 9, con Verdini se ne andranno in 5 o 6, non ci faranno male, anzi vedrete che il problema sarà proprio per Renzi, che dovrà gestire persone che nel suo partito vengono considerate impresentabili. Voglio proprio vedere come farà. Tra l'altro racconta il Corriere che già Verdini ha cenato con Luca Lotti, plenipotenziario del PD e comunque fedelissimo di Matteo Renzi, e dunque il passaggio di Verdini a un appoggio al governo Renzi in pratica è fatto. La stessa Repubblica dedica pagina 2-3 a questi movimenti della politica e racconta con Goffredo De Marchis nella retroscena pagina 2 che effettivamente Renzi ammette ci potrebbe essere qualche problema. Certo che è un problema se Verdini e la sua pattuglia diventano una stampella del governo al Senato. Possono indebolirlo anziché rafforzarlo, sostiene Renzi con i suoi collaboratori, ma è un problema altrettanto grande avere un partito che non si comporta come un partito. E dunque Renzi non evita la solita stoccata anche alla minoranza del proprio Partito Democratico, com'è che li ha definiti qualche giorno fa, la tribù dei musi lunghi, i vari Bersani o Fassina. Beh, Fassina adesso esce dal PD e quant'altro, insomma, i vari Bersani, D'Alema, ci siamo capiti. Vabbè, questa è la politica, eh? Questa è la politica. C'è poi il dibattito sulle tasse. Il dibattito sulle tasse, io vi prego, spero che non prenda questa piega che sta prendendo, e cioè prima delle tasse sulla casa forse è meglio incidere sulle tasse sul lavoro. Questo l'ha detto Cooperlo, per esempio. Forse prima che sul lavoro, più sì, lavoro e imprese. Forse è meglio prima i pensionati. Con questi dubbi e con questi dibattitoni si capisce che in Italia alla fine non si farà nulla. Con questo iniziamo prima qui, no iniziamo prima là, no tagliamo prima di su, no tagliamo prima di giù. Ecco, non vorrei che prendesse questa piega il dibattito, ma cosa che già un pochino si sospetta leggendo i giornali. Mentre il Sole 24 Ore oggi intervista Joram Gutgeld, è il commissario per la spending review, colui che ha sostituito Cottarelli, che aveva sostituito quello precedente, che era credo Giarda, che ne aveva sostituito uno precedente. Gutgeld, gli acquisti della pubblica amministrazione con centrali specializzate, questo è l'annuncio che fa, confermando che l'obiettivo spending review da centrare con la legge di stabilità è fissato a 10 miliardi, quindi questa non è una novità, è una cifra che circola da tempo. Comunque Marco Rogari lo ha intervistato a pagina 2 del Sole 24 Ore, l'annuncio, anche questo per la verità è un qualcosa che doveva essere già fatto, comunque è stato già annunciato anche da Cottarelli, passare da 30.000 stazioni appaltanti a poco più di 30, avete capito? Da 30.000 a 30. Bah, si è partiti con la prima riunione. La prima riunione, dice Gutgeld, la riduzione da oltre 32.000 stazioni appaltanti a una trentina era prevista dal decreto sul bonus IRPEF da 80 euro. Ora stiamo accelerando, assicura Gutgeld. Al tavolo partecipano la Consip, una centrale d'acquisto per ogni regione e una per ciascuna area metropolitana, poi qualcun altro. Ora dobbiamo ragionare con l'ANCI su come estendere tutto ciò ai comuni. Conferma appunto i 10 miliardi, dice ci saranno tagli anche per i ministeri, si parla di 3-4 miliardi di tagli, anche i ministeri dovranno fare la loro parte, ma non dice per quanto Guttgel. Per questo motivo stiamo valutando tutti i capitoli di spesa. Insomma, l'annuncio più importante mi sembra questo, per gli acquisti della pubblica amministrazione 34 centrali specializzate, da 32.000 a 34, beh però... Insomma, da 32.000 a 34 è un bel taglio, effettivamente. Ma Mauro Meazza, prima di augurarmi buone vacanze, reciprocamente ricambiato, ci dovrà dire quando avverrà questo taglio da 32.000 a 34 centrali. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno. Scusami, ero un po' distratto perché stavo guardando la cartina appunto dei cosiddetti soggetti aggregatori. Sì. Che sono quelli soggetti che devono, che adesso devono provvedere, ce n'è uno per regione come citavi prima, e devono provvedere ad avviare tutto questo riordino, che però si potrebbe anche dire abbiamo fatto la prima riunione, ci sarà un momento in cui la nave comincia a virare, ecco, no? Magari è proprio questo. Intanto ti voglio dire che ti potresti comprare anche tu una Ferrari, caro Alessandro. Sì? Non perché io abbia negoziato per te un sontuoso rinnovo del tuo peraltro già sontuoso compenso, ma perché, come leggi sul Sole 24 Ore di oggi, Ferrari è pronta per lo sbarco in borsa a Wall Street. Allora, una azione della Ferrari, non una macchina, potresti anche comprartela, magari un po' di più di 2 euro, temo, perché i 2 eurini potrebbero non bastare, ma con quello che farai rientrare dalla voluntary disclosure, di cui parliamo anche oggi sul Sole 24 Ore, è importante il dibattito che si sta creando sulla definitiva approvazione del decreto sull'abuso del diritto, ma questo lo capiscono i nostri amici commercialisti, non è importante che lo capiamo. No, ma infatti, vediamo se l'hanno capito tutti, Mauro, però aspetta. Senti un po'. La volontà. Un perdono a Meazza, l'amico tuo, è quella parola strana. Lo volontari di scrasciur, che cavolo ordini? Mannaggia la puttana, spiegatevi bene. Ma guardate, tra l'altro, vedo che Angelino e io siamo anche divisi da una questione di genere, perché lui parla di voluntari di scrogiole e invece io sono volata a usare il femminile, la voluntari di scrogiole. Vabbè, non è importante, è importante invece quello che ti presentiamo sulla riforma dei fallimenti, che è attesa oggi al primo voto importante in un ramo del Parlamento, poi ci sarà il secondo, perché cambiano molte cose anche per le aste giudiziarie e la tutela anche dei creditori in caso di fallimenti. Hai visto che sulla Grecia i creditori, l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, insiste, bisogna tagliare il debito, la cosa non è semplicissima, e hai visto che il Financial Times se lo comprano i giapponesi. È vero, il Financial Times ai giapponesi. Una notiziola mica da poco, tra l'altro per più o meno 1 miliardo di euro, ma trovi tutti i particolari su Finanza, sulle pagine di Finanza oggi. Oh, è confermato il rinvio del 770 al 21 settembre, si parla adesso. Facciamo in tempo a tornare, non, dai. Non c'è l'ufficialità, ma facciamo in tempo a tornare. Sto prenotando su Kepler 452B. Sì, anche tu? Sì, le vacanze? Sì. No, partiamo insieme, non te l'avevo detto già ieri. Ah, anche perché tutte le mattine io ti telefono adesso fino al 31 agosto alle 7.40 e ti chiedo di leggermi i giornali, perché... Va bene. D'altra parte Alessandro Milan legge i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. Come mia zia, come mia zia. Ah, è tua zia, no, quindi ecco, no, finalmente no, abbiamo svelato. No. È un'ascoltatrice. Un'affezionata parente di Alessandro Milan. Va bene, molte altre cose ti vorrei dire, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo si è concluso. Sì. Ci risentiamo 2 di o già direttamente domani per la... Se vuoi anche per un caffè al bar adesso. Ma guarda, volentieri, così ci mettiamo d'accordo sull'orario della partenza per le ferie. E poi naturalmente con gli ascoltatori invece 2 di o ritorniamo il 31 agosto con molto piacere. E fino ad allora, per tutti quanti, traffico! È arrivato l'arrotino. Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Questa è nelle top 3, top 3, nelle top 3 delle migliori. Ripariamo cucine a gas. abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas. Allora, cari ascoltatori, noi le aggiustiamo. No, facciamola andare. Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. Che bel ritorno all'infanzia, no? Quando si sentiva molto spesso questa voce echeggiare tra le nostre città. Adesso sono davvero pochissimi. Allora, l'Ilva prende molte pagine di giornali perché ci sono i rinvii a giudizio per il processo, come racconta Domenico Palmiotti, tutti rinviati a giudizio alla sbarra in Riva, cioè i proprietari dell'Ilva, e saranno tutti processati in corte d'assise dal 20 ottobre prossimo i 47 imputati e tre società del processo Ambiente Svenduto, nato a Taranto dall'accusa di disastro ambientale mossa dalla procura nei confronti dell'Ilva. Tra gli inviati a giudizio ovviamente Nicola e Fabio Riva, rappresentante della proprietà Ilva, ma anche l'ex presidente della regione Puglia Nichi Vendola, oltre al sindaco di Taranto Stefano, il direttore generale dell'ARPA Puglia Giorgio Assennato. È chiaro che però il nome politico che finisce più sui giornali è quello di Vendola, che si difende, fa tre interviste, una a Repubblica, una al Corriere della Sera, una al Manifesto. A Repubblica dice, intervistato da Lello Parise a pagina 11: mi stanno strappando la pelle di dosso, mi aspettavo che fosse scritta una pagina di giustizia, mi brucia questa ferita che viene inferta alla mia storia. Neppure quelle carte possono smentire il lavoro straordinario che abbiamo fatto per battere l'onnipotenza dei Riva. Noi abbiamo ingaggiato un corpo a corpo coi veleni per mettere in equilibrio lavoro e salute. Giura al Messaggero, scusate, al Manifesto, che verrà assolto, sono sicuro della soluzione piena, lo dico anche in diretta per i miei amici che ci seguono da questo momento su Periscope in diretta, sono sicuro della soluzione piena, assicura Vendola, intervistato da Gianmario Leone per il Manifesto. E vabbè, vedremo un po'. Oh, cari amici, state per partire? Ecco, come noi, oggi è un giorno difficile per i trasporti. I sindacati scioperano contro le vacanze. Questo è l'articolo, il titolo molto duro. L'accusa di Libero, che in prima pagina mette proprio questa notizia con il titolo "L'odio dei sindacati, sciopero contro le vacanze". Come ogni estate, nei giorni cruciali per il turismo si fermano i trasporti. È un venerdì nero. È stato scongiurato uno sciopero dell'ATM, cioè l'azienda trasporti di Milano, ma Trenitalia, c'è uno sciopero dei macchinari dell'Orsa, Orsa è un sindacato, e poi all'Italia c'è uno sciopero dei piloti, e quindi ci saranno problemi per chi vola, insomma sciopero un po' dappertutto. Vi segnalo invece per la cronaca un'intervista a Maurizio Tramonte. Chi è? È stato condannato dopo 41 anni a piazza della strage di Piazza della Loggia all'ergastolo insieme a Carlo Maria Maggi, considerato uno stragista dunque. Parla con la stampa, intervistato da Rafael Zanotti, tra l'altro parla proprio da Brescia dove vive, e dice: sono tutte calunnie, io non ero in Piazza della Loggia quel giorno, il carcere sarà il mio ospizio. In quella foto portata a processo in cui si dice che io ero lì in Piazza della Loggia, in realtà non mi ci riconosco, non ero lì, e in quella foto non sono io. È la foto che ha fatto tutto, molto suggestiva, capisco i giudici popolari, ti vedi lì il professore, una perizia, così tutto molto suggestivo, anch'io sarei rimasto impressionato, ma so che non ero lì. E ho grande rispetto per la sentenza, tuttavia la critico. Non ero lì, il colpevole è fuori. Chi è stato? Non lo so, dice Maurizio Tramonte, intervistato dalla stampa. Oggi mi devo prendere un pochino di tempo per la carta costa, Siamo al momento conclusivo. Intanto della classifica, eccola qua, la classifica della carta costa che trovate anche sul mio profilo Twitter Alino Milan. La classifica vede vincere quest'anno, per gli articoli più inutili scovati sui giornali, a mio insindacabile giudizio, il Corriere della Sera con 50 voti, quindi vincono mani sul volante, ma anche La carta costa 50 al Corriere, il Giornale 46, Libero 33, Stampa 28, Giorno e Fatto Quotidiano 16, poi Repubblica, Il Secolo, Messaggero, La Croce che non c'è più e L'Unità. Non c'è nell'articolo la carta costa Il Sole 24 Ore. Chiaro caso di paraculismo aziendale, questo è chiaro, cari ascoltatori, ma voglio leggere anche una lettera che ho ricevuto qualche tempo fa. Non dirò il mittente per carità di patria, una lettera mandata al nostro direttore, a me per conoscenza e all'ordine dei giornalisti. All'ordine dei giornalisti. Mi scrive un signore. La presente per fare alcune considerazioni sulla professionalità del giornalista e come l'ordine tuteli i propri scritti. Nella trasmissione del programma 24 Mattino, da lui condotto, il codice deontologico dei giornalisti è sistematicamente violato, soprattutto nella rubrichetta La carta costa, doppiamente negativa. Se la carta costa è inutile stampare i giornali, poi indicare i nomi degli autori dell'articolo più inutile, a suo insindacabile giudizio, e decantarlo su tutto il territorio nazionale dovrebbe essere offensivo per ogni collega menzionato. Anche per me, a mio insindacabile giudizio, Alessandro Milan è un inutile, ma non lo declino a tutto il mondo, e l'ordine dei giornalisti non ha mai in alcun modo tutelato la dignità di chi scrive informazioni sui giornali. E dunque mi spiace che il suddetto, cioè sarei io, non abbia mai avuto un richiamo in merito dall'ordine dei giornalisti. Ma signore, ma si faccia una risata, questo è il problema. Come aggiungo sempre io, la carta costa e anche il microfono costa. Prima cosa, mai prendersi sul serio. Ma per concludere, per appunto, la carta costa di oggi e valga per tutta l'estate, vi vince il giornale, che dedica mezza pagina con Simonetta Caminiti a una inchiesta uscita, una ricerca pubblicata dall'American Anthropologist. Sorpresa, il bacio non piace a tutti. Mezzo mondo in pratica preferisce evitare il bacio. Mezzo mondo, eh? Ma chi se ne frega! Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan! Che te bozzino via fuoco! Milan, il cagnastrandaggio dell'informazione! Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, cari ascoltatori, sono le 8:18 minuti e questa è l'ultima puntata di 24 Mattino. Poi andiamo in ferie fino al 31 agosto. Il 31, ripartiremo. Lunedì 31 agosto e... Come dire, vi voglio lasciare quest'estate parlando l'ultima puntata dei movimenti della politica? No, per carità, i verdiniani che lasciano i berlusconiani. No, ho pietà di voi. Voglio lasciarvi parlando della puntata numero 1323 della telenovela Crocetta. No, per carità, no, anche se Crocetta ieri è intervenuta all'Assemblea regionale siciliana e con le sue frasi sempre lievemente iperboliche ci ha regalato due perle. Mi sono rifiutato di offrire le carni in tasto a famelici e rapaci carnefici. Tutto questo passerà alla storia come una storia infame. Mi sono rifiutato di offrire le carni a rapaci famelici. Ma che è? Vabbè, insomma, sempre Crocetta, sentite qui. Ritengo di essere uno di quelli che la mafia lo dovrebbe denunciare per mobbing. La mafia mi denunci per mobbing. L'ho detto anche prima, alla procura di Palermo. Buongiorno, sono la signora mafia, vorrei denunciare per mobbing il presidente della regione Sicilia. Allora, no, ma la notizia che oggi è più sui giornali, ma è anche stata l'apertura del giornale radio, ma è vero, c'è questa idea della seconda terra. Ma avete visto che hanno scoperto il pianeta? Hanno scoperto un pianeta, Kepler 452b. È simile alla Terra, anche più antico, più no, è nato prima. Ha un sole che è simile al nostro sole, che è anche un po' più grande del nostro sole. Ha un'orbita quasi identica alla nostra, così come la lunghezza dell'anno, 385 giorni terrestri. Abbiamo scoperto un nuovo mondo. L'Unità titola così: c'è un nuovo mondo. Un nuovo mondo è possibile, con la foto di Kepler 452b. E ovviamente il dibattito sui giornali italiani è sempre molto scientifico. Chi mandereste su Kepler 452b la nuova Terra? Ecco, voglio fare questa domanda così d'ingresso ad Angelo Perrino, direttore di affariitaliani.it. Anche voi, visto che aprite su questo, direttore, buongiorno. Buongiorno. Chi ci mandereste? Chi ci manderesti tu su Kepler 452b? Diciamo che c'è l'imbarazzo della scelta. Sicuramente partirei da Crocetta. Ah, subito così, Crocetta. Direi di sì. Uno che dice che ha pensato di suicidarsi, l'ha detto due giorni fa. Sì, sì. E mi sembra sconcertante. Non siamo mai arrivati a un livello così basso di rappresentanza politica pubblica. Quindi Crocetta, via. È veramente via, sconcertante. Su Kepler 452b. Beh. Anche se lì, Alessandro, io devo dire, noi abbiamo scritto su Affari Italiani di ieri, che non è meno sconcertante il comportamento dell'Espresso, cioè hanno pubblicato, dicono, una dichiarazione intercettata nella quale si dicono però cose, dicono, giurano che ci sia, ecco, però poi non la producono, sicché noi dobbiamo credere a questa affermazione sulla base del nulla. Questo non esiste, cioè in passato noi giornalisti, una volta che avessimo introdotto un concetto, ci saremmo fatti in quattro per dimostrarne la verità. E che facciamo quindi? Ma Crocetta lo vuoi lasciare da solo o vuoi mandare anche tutta la redazione dell'Espresso? No, anche il sindaco di Roma Marino, glielo prendiamo. Ma guarda, di Marino magari un po' parliamo, perché dicono che Roma è brutta, però intanto vorrei chiedere Chiara Geloni, ciao, come stai? Bene, voi? Bene, bene, ci manderesti qualcuno? Io ci manderei te in vacanza, scusa, così poi quando torni ci racconti. Ti ringrazio molto, ti ringrazio molto. Sono solo 1400 anni luce di distanza, quindi le vacanze sarebbero un po' lunghe. Visto che c'è polemica sulla lunghezza delle tue vacanze, dicono che fai più vacanze di un magistrato. Sì, e di un parlamentare, tempo. È vero. Ah, va bene, comunque, vabbè, subito la gente mi scrive, manderei la Boldrini, manderei tu, che sarei io, la Camusso e Landini, cioè io un bel trio. Va bene, vi ringrazio anche molto. Anche la compagnia, insomma, capisco. No. No, vabbè, dai, torniamo sulla Terra. Renzi ha parlato di tasse. Ecco, io qui vorrei partire adesso abbastanza seriamente, perché non vorrei davvero che il discorso sulle tasse si avvitasse. Ecco, utilizzo questa rima sulla questione, perché è partita così adesso. Prima che sulla casa, forse meglio le tasse sul lavoro. Prima che, forse meglio le imprese. Forse meglio prima le pensioni. Risultato, non vorrei che non se ne facesse nulla. Comunque, Renzi al TG5 ieri conferma le tasse. Ce lo dicevano per gli 80 euro, non troverete mai le coperture. Ce lo dicevano per l'IRAP nel 2015, se si eliminano gli sprechi della pubblica amministrazione. L'Italia non soltanto riparte, ma è in condizione di buttare giù le tasse. Le tasse, poi Renzi aggiunge ancora sempre sulle tasse, che 50 miliardi è questa la cifra. Però Chiara Geloni, allora, dobbiamo fare un atto di fede, dobbiamo crederci, non vorrei, ripeto, che iniziasse un dibattitone in cui poi alla fine non si fa niente. Ma il problema è che non fare niente non è il dibattitone, perché si è visto che Renzi quando vuole fa, insomma, a costo di dover cacciare chi non è d'accordo con lui dalle commissioni o di dover mettere la fiducia se decide di fare una cosa, si è visto che la fa. Io segnalo che oggi su Repubblica c'è un'intervista di un signore che si chiama Filippo Taddei, sì, che oltre a essere un professore di economia è anche il responsabile economico del PD, come no, nominato ovviamente da Renzi in segreteria. Ecco, Filippo Taddei dice che lui quella misura di taglio del totale, dell'abolizione totale della tassa sulla prima casa, non la farebbe. Vabbè, ma anche, cioè, perché in tutto il mondo è una cosa normale, cioè, voglio dire, anche perché in tutto il mondo la tassa sulla casa c'è. Comunale sui servizi e i beni che sono, di cui uno fruisce all'interno del comune. E quindi la togli, la sostituisci con cosa? Lo Stato dà ai comuni una specie di paghetta per le spese per quanto riguarda la spazzatura, le buche, le scuole, le competenze comunali? E cosa fa? Ai comuni più virtuosi dà meno soldi e ai comuni meno virtuosi, ai quali servono più soldi, dà più soldi? È giusto? Questo vedi che sei già entrato in un dibattito. Sei pronta per la prossima festa dell'unità, qualsiasi non mi invitano ultimamente. Beh, puoi andare da militante, non è che ti metteranno alla porta, però no. Perrino direttore, eccoci, sempre le tasse, cioè alla fine gira e rigira, ma giustamente gli italiani guardano le tasse, la pressione fiscale è enorme. Tu credi in questo annuncio, che è legittimo, uno può dire faremo questo, oppure temi che ci si avviti in questo discorso in cui poi alla fine sarà un gran dibattito ma poi di concreto ci sarà poco? Ma io direi che ci sono tutti questi rischi. Sicuramente è un paese che ama dibattere e che la butta sempre in tribuna, no? Cioè il problema è ben altro, diceva Veltroni, e nacque il benaltrismo. Certamente c'è della demagogia, perché da tanto in questo paese si dice riduciamo le tasse, ma in realtà poi le tolgono a livello nazionale, le inseriscono sotto banco a livello locale e alla fine la somma è sempre a discapito dei contribuenti. Ciò detto, questo è un paese con il più alto prelievo fiscale e questo fattore, oltre a deprimere le famiglie, fa sì che l'Italia sia poco competitiva, poco attraente, eccetera. Quindi bene ha fatto Renzi a porlo come il primo punto della sua agenda. Diciamo che si muove in una logica, come una sorta di profezia che si autoavveri. Cioè, auguriamoci che sia così e sosteniamolo in questa in questo wishful thinking, cioè questo desiderio di Renzi. Sì. Abbiamo tutti gli interessi. E poi il desiderio di tutti noi. Esatto, quindi perché accodarci agli scettici? Abbiamo interesse a che accada. Dunque, forza Renzi. No, ma l'accodarsi agli scettici mi sembra di capire anche per Chiara Geroni che è l'idea dell'annuncite, no? Perrino viene spesso accusato di annuncite. È vero che qui uno, come ho detto tante volte, basta che prende nota di quello che ha detto, taglia le tasse sulla prima casa l'anno prossimo, IRAP e IRES l'anno successivo e poi scaglioni IRPEF e pensioni. Perrino, qua basta annotare alla fine, prendere nota e vedere. Sì, ci sono anche problemi di copertura, sicuramente non è una cosa facile, però vogliamo credergli, perché è interesse di tutti, singolarmente come paese, che qui le tasse vengano abbassate. Ma tu la tassa sulla casa la toglieresti, Perrino? No, no, non si sta parlando da ministro dell'economia, coperture, sì. Proprio come concetto, l'idea di... Io credo che sulla prima casa si possa togliere, forse, ecco, però con una logica diversa tra chi ha la reggia e chi possiede una stanzetta a quarto giaro, ecco, forse lì un criterio di equità andrebbe in qualche modo previsto. Chiara, ti sta bene così? Allora, a me sta bene che se l'Italia è in condizione di ridurre le tasse, siccome è vero che c'è un prelievo fiscale molto alto, siano ridotte le tasse. Segnalo così, diciamo, non è che mi fa piacere questo, ma a Bruxelles hanno detto che lo sconto ce l'hanno già fatto e quindi andare in deficit non sarà consentito, cosa che non mi piace, ripeto, però è un altro fatto di cui tenere conto. Tutto sta a vedere quali tasse togliere, in quale modo. Già Perrino, che dice che dobbiamo avere fede in Renzi, io ho fede in altro, ma dice che poi però sulle case di lusso, per esempio, lui non le toglierebbe giustamente la tassa, anche se fosse una prima casa. Quindi, come vedi, si possono fare le cose in tanti modi. Adesso non è che tutto per forza è una discussione inconcludente. Si può decidere di togliere o di ridurre o di alzare la soglia di esenzione della tassa sulla prima casa se abbiamo i soldi e se ce lo possiamo permettere, o se il governo convince l'Europa che possiamo permettercelo, ma non è detto che debba essere una riduzione totale indiscriminata, che secondo me non sarebbe equa sul piano sociale, perché chi può pagare la tassa sulla prima casa, sì, secondo me è giusto che la paghi, cioè non capisco perché trattare allo stesso modo chi non può pagare e chi può pagare. E questa è una la cosa sulla quale siete d'accordo. È giusto che ci sia un principio progressivo. Sì, però la mia sensazione, in qualche modo, leggendo anche l'intervista, per esempio, che fa oggi Yoram Gutgeld, Gutgeld è il nuovo commissario per la Spending Review, intervistato al Sole 24 Ore da Marco Rogari, dice: bisogna ridurre le stazioni appaltanti per gli acquisti della pubblica amministrazione da 32.000 attuali, 32.000 a 34. Da 32.000 a 34. Anche io, Perrino, ma questa io l'ho già sentita da Cottarelli, cioè l'ha già suggerito Cottarelli. A un certo punto Rogari gli chiede: beh, quindi allora come va? Abbiamo fatto la prima riunione. Ma cioè, ma la ma per carità, io non sto dicendo, non voglio fare qualunquismo, non è facile. Cioè, mi rendo conto che riforme del genere, anche perché se uno le vuole fare, ci sono delle forze uguali e contrarie, anzi, forse non uguali, ma anche forze molto superiore e contrario, che cercano di impedirti di fare le cose in Italia. Perrino, ma tu hai la sensazione che si riescano a fare queste cose? Cioè, fatelo se volete da 32.000 a 34, ma fatelo, non dico in due giorni, ma neanche parlarne per tre anni. Sì, è destino che in questo paese tutti coloro che si dedicano al taglio della spesa registrino fallimenti e vadano a casa. Ricordiamo prima ancora di Cottarelli, Giarda, periodicamente si insiede una commissione che studia come tagliare la spesa pubblica e non succede nulla. Perché? Ma l'erogazione della spesa pubblica è il sistema attraverso il quale i partiti politici e i singoli politici alimentano la loro capacità politica, le loro correnti, i loro gruppi, la loro stessa esistenza in vita. Sicché è un po' un paradosso, un'aporia filosofica, vorremmo che costoro si taglino le balle, come si dice, cioè tagliando la spesa pubblica. Con un francesismo. Esatto, si privino di un sistema di autofinanziamento. C'è questo paradosso. Come può venir meno? Attraverso appunto la spinta sul taglio delle tasse, che significa minori entrate, che obbligherà a tagliare le uscite. Quindi ancora una volta l'enfasi sul taglio della pressione fiscale è virtuoso, ci obbliga a un percorso virtuoso, positivo. Allora, Chiara, tra poco, dopo la pubblicità, tra tre minuti, avremo Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle, che vuole denunciare un'altra cosa che in Italia rimane sempre, per la verità dal 2017 cambia, il finanziamento pubblico ai partiti. So che tu sei favorevole. Sì, io credo che il finanziamento, che la politica debba avere anche un finanziamento. E vabbè, è una posizione di molti, cioè che debba avere, il problema forse è che si è mangiato un po' troppo, però forse che ci debba avere. Deve essere trasparente, ovviamente deve essere gestito in maniera onesta, non per comprare i diamanti o le lauree. Cose che purtroppo sono avvenute, sì, ma questo non è un problema di principio. Questo è chiaro. Il principio secondo te è giusto. Una delle tante cose che invece per molti italiani non si riesce proprio a cambiare è questa. E Danilo Toninelli ci dirà che i partiti stanno tentando un altro colpo adesso alla fine, entro la fine di luglio. Ma tra poco, state con noi, 3 minuti e mezzo, e poi rientriamo con Chiara Geloni, Angelo Perrino, direttore Affari Italiani, e appunto parliamo di altri temi. Ringrazio l'ascoltatore che su Twitter mi vorrebbe mandare la troica, così annulliamo le 5 settimane di ferie. Fannullone mediterraneo, Chiara Geloni, mi accolgono così. C'è un dibattito sulle mie ferie, ma io non lo so, ma potete lasciare stare le mie ferie. Vabbè. Perché tu alimenti il populismo. Ma no, ma che populismo. Con Chiara Geloni, Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, al quale voglio porre una domanda. Tu daresti i soldi, domanda ovviamente tendenziosa, daresti i soldi nel tuo 2 per 1000 ai partiti? Cosa che pochissimi italiani hanno fatto, sapete che c'è questa possibilità di scelta? In teoria sì, in realtà come ho detto prima i partiti si finanziano attraverso la spesa pubblica, quindi forse questo finanziamento alla fine è un regalo in più, poi si finanziano in mille modi, con i giornali, con le spese elettorali. I giornali a volte sono più un costo che per i partiti, più che un finanziamento. Sì, ma nel prevedere queste leggi a sostegno dell'editoria politica di partito, in realtà quelli sono finanziamenti. Quindi è una giungla sulla quale sarebbe utile vederci chiaro, anche perché diciamo partiti, ma poi quali sono i partiti? Ormai i grandi big operano dentro i partiti con proprie fondazioni che ricevono denari direttamente, quindi quei partiti sono svuotati, sono alla fine piccole realtà impiegatizie che mantengono aperta la ditta, come direbbe Bersani. E invece le fondazioni sono quelle che raccolgono i soldi. Dunque è un dibattito finto, Alessandro. I partiti dove sono? Di cosa si occupano? Chi li governa? È una finzione, una delle tante ipocrisie del nostro sistema. Però io non so, sono abbastanza certo che Chiara Geloni, quando mi dice di alimentare il populismo, si riferiva proprio alla questione dei soldi ai partiti. Allora io voglio salutare Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle, fa parte della Commissione Affari Costituzionali. Buongiorno Toninelli e ben ritrovato. Eccoci qua, buongiorno, grazie Milan. Allora, lei ha voluto in qualche modo anche denunciare, vuole il Movimento 5 Stelle, quello che sta per succedere a fine luglio, quando i partiti prenderanno una tranche del finanziamento pubblico, che dal 2017 cambierà e vabbè, come è un'altra questione, però per il momento prendono soldi. Quanti ne prenderanno? Prenderanno circa il 70% di quello che hanno sempre preso, quindi sono in totale parecchie decine di milioni di euro, a cui ovviamente non vanno ricompresi la quota del Movimento 5 Stelle, che come sai benissimo abbiamo rinunciato. Voi rinunciate. E qual è il problema in questo? Qual è il problema nel prendere questi soldi? Ma no, il problema è che loro non hanno per legge il diritto di prenderli, perché quando il primo ministro era Letta e fece un decreto sulla finta abolizione del finanziamento ai partiti, creò questa commissione di esperti che è insediata alla Camera dei Deputati, che doveva controllare i bilanci e i rendiconti dei partiti. Ebbene, questa commissione è stata costruita male e non ha mai operato. Ed è necessario che questa commissione metta il verdetto, diciamo così, sul rendiconto dei partiti, affinché i partiti possano accedere al finanziamento. Sì, qualche giorno fa il Fatto Quotidiano aveva scritto: questa commissione non ha dato l'ok, diciamo la bollinatura ai bilanci dei partiti, e quindi senza questo ok in teoria non dovrebbero prendere i soldi. Però sa cosa ci ha detto il tesoriere Bonifazi del PD? Ha detto, meglio che Sposetti. Bonifazi, il tesoriere del PD, ha detto: il problema non è nostro dei partiti, ma appunto che questa commissione è sotto organico, non hanno persone, e quindi che possiamo fare noi più che presentare creata loro questa commissione? Ma no, è divertente, se non per non drammatizzare. Loro in pochi giorni, nelle pause di pochi minuti che c'era tra i lavori d'aula, hanno messo prima una norma ammazza blog che vietava tutte le pubblicità e quindi che avevano scopo di lucro all'interno di qualsiasi sito o blog riconducibile ai partiti. Grazie al cielo l'abbiamo presa e bloccata. E poi invece proprio l'altro ieri che cosa hanno fatto? Hanno messo dentro in una PDL a prima firma Boccadutri, che è l'ex tesoriere di SEL, oggi del PD, che di fatto eliminava le sanzioni ai partiti per i finanziamenti illeciti quando loro ricevevano finanziamenti illeciti, cosa allucinante. Tra l'altro questa PDL qua, questa proposta di legge Boccadutri, non c'entrava niente, perché dava un po' di personale in più a questa commissione di esperti, e sbloccava il finanziamento bloccato, perché rimandava il controllo di questa commissione dal 2015 in poi, quindi sbloccava i finanziamenti che devono essere. Insomma, la vostra denuncia è che prenderanno, come previsto dalla legge in teoria, a fine luglio la tranche di soldi, che però secondo voi non spetta. Il fatto non che spetta. Se ci siamo noi, dubito che lo facciano, perché noi abbiamo già scritto anche una lettera alla Presidente Boldrini e al Presidente Grasso, che stanno cercando di risolvere loro questo problema, perché lei sa che sono i Presidenti di Camera e Senato a firmare, schiacciare, diciamo, l'invio, l'erogazione di finanziamento. Noi diciamo no, c'è una legge, l'autodichia, cioè l'autodeterminazione giuridica del Parlamento non può andare contro questa legge, quindi se lo fanno noi le denunciamo penalmente, amministrativamente, contabilmente, perché non devono essere dati questi partiti. Denunciate il Presidente della Camera e del Senato se arrivano questi soldi. All'interno dell'ufficio di Presidenza l'ok all'erogazione. Allora, qua Chiara Geloni, al di là della questione tecnica di questa vicenda di fine luglio, cosa contesti al Movimento 5 Stelle nel principio? Tanto meno a Toninelli, che saluto e che è una persona seria. Buongiorno. E l'ho ascoltato e ovviamente non la penso come lui, ma voglio dire, va bene, lui è per l'abolizione del finanziamento pubblico e io no. Ma non ho capito invece un'altra cosa, cioè Veramente per capire, no? Cioè, questa commissione che sì. Dove, allora, la legge che abolisce di fatto il finanziamento pubblico diretto e lo sostituisce con un sistema di detrazioni fiscali che entra totalmente nel 2017 e che poi magari ne parliamo, io credo che non funzionerà perché nessuno vuole finanziare i partiti e quindi quest'anno il bottino è magrissimo e se fosse questa la situazione a regime i partiti chiuderebbero tutti, il che può essere anche un bene per Toninelli, ma non è un bene. No, ma perché sono diventati delle aziende, non è un bene. Però volevo dire, questa legge prevede un decalage, cioè non è che gli interrompe di botto il finanziamento, ma in 3 anni. Questa commissione che doveva controllare la corrispondenza dei partiti ai requisiti previsti dalla legge non si è costituita, non ha funzionato, era sotto organico. Ma di chi è la colpa di questo? Non lo so. Toninelli è un parlamentare. No, vediamo, Toninelli, di chi è la colpa? Era stata fatta da Letta, credo che ci sia un magistrato. Sì, un magistrato che... Letta non c'entra niente. No, sto dicendo, è stata costituita, c'è un magistrato che è a capo di questa commissione, noi l'abbiamo anche chiamato, ma ha detto io non posso parlare. Si è appena insediato perché il precedente magistrato, il dottor Bove, se n'è andato a gennaio in protesta perché la Camera non gli permetteva il magistrato che abbiamo contattato ha detto io per motivi istituzionali non posso parlare. È venuto pure in commissione a parlarci. Qual è la colpa, chiede Chiara Geloni, cioè perché non funziona questa commissione? Di chi ha scritto la legge? Quando tu vai a costituire un comitato, una commissione di esperti così importante e lo fai male, probabilmente lo fai perché vuoi che sia una mera formalità, cioè verifichi che in quella casella ci sia stata una compilazione e tutto ok. In realtà questa commissione ha voluto non fare una formalità ma effettivamente contrarre i rendiconti, gli mancava la strumentazione, gli mancava il personale specialistico, non l'ha potuto fare. Hanno fatto questa proposta per integrare con altro organico la commissione, che noi siamo d'accordo perché noi vogliamo che i rendiconti dei partiti siano controllati, però non ci sono i tempi tecnici per approvare la legge prima del 31 luglio e quindi prima delle erogazioni. I partiti aspetteranno qualche mese, quando la PDL anche con il nostro voto verrà licenziata, e si piglieranno i soldi con tutta probabilità. Al 31 luglio dice, non è chiaro, voi dite al 31 luglio no, però qua Perrino non se ne esce fuori dal dibattito, in realtà che sta più in sottofondo e che è quello che contrappone, se vuoi, Caragelloni e Toninelli, cioè i soldi ai partiti vanno dati oppure no, vanno tolti, cioè messi zero, oppure la democrazia ha bisogno di un qualche finanziamento? Io direi soldi zero e lasciare ai militanti il finanziamento di un'idea e di un progetto al quale ciascuno di noi può credere. Questo sarebbe trasparenza etica e slancio politico al partito. Anche se le accuse, sai, sono le solite, fanno politica solo i ricchi, quelli che hanno più soldi sono avvantaggiati. No, torniamo al tesseramento, se si ritiene, a forme più moderne, ma comunque di partecipazione reale della gente alla vita di un partito, e sottraiamolo a queste cosche che in sostanza gestiscono il tesseramento a fini di divisione del potere. Questo oramai sono i partiti. Non possiamo credere a queste commissioni perché gli stessi partiti affidano a commissari da loro scelti e da loro pagati il compito di emendarli. Non ha senso, è un paradosso senza via d'uscita, è un dibattito finto che non ci porta da nessuna parte. Vabbè, insomma, soldi zero. Io devo chiudere qui, vorrei capire da Toninelli qual è la data precisa, 31 luglio, quanti ne ha me il luglio, 30, 31, io manco so. Sì, la data finale per le erogazioni, questa tranche che mi sembra riguardi le elezioni del 2013, quindi il secondo anno, è il 31 luglio. E noi quando si saprà se vincerete voi, diciamo, mettiamola così, politicamente, oppure se arriveranno questi soldi? Proprio il 31. Una cosa certa è che se non ci fossimo stati avrebbero abolito le sanzioni ai partiti, una cosa scandalosa, fatto a fine luglio nell'inconsapevolezza generale del paese, e si sarebbero già dati i soldi. Il fatto che ci siamo noi va bene. Mi permetto di prendere 10 secondi. Le fondazioni sono un altro enorme problema, perché non devono rispettare norme di trasparenza delle aziende normali e delle società normali, nemmeno la normativa antimafia. Abbiamo visto lo scandalo, tra l'altro, della fondazione Open del Presidente del Consiglio, che ha come principali finanziatori le lobby del tabacco, le quali avrebbero ricevuto dal governo degli sconti. Quindi qua è tutto da rifare. bisogna mettere trasparenza e legalità. I partiti non devono più essere delle aziende a scopo di potere e a scopo di lucro, ma devono essere funzionali a trasformazione delle idee. Questo... per cui sono stati mandati in Parlamento e stop. Questo lo scriveva il Fatto Quotidiano della Fondazione Open, anche se lì subito Boldrini ha detto ci vuole una legge sulle lobby. Subito, anche qui, subito. Come bisogna fare le 32 stazioni appaltanti da 32.000, dice Gutgeld, subito, da fare, subito, tutto subito. In realtà di subito in Italia ci sono solo le tasse, le cose poi, le vere riforme, le attendiamo con ansia. Io ringrazio Angelo Perrino, direttore di affariitaliani.it, ringrazio Chiara Geloni, ovviamente buone vacanze, così come a Danilo Toninelli, che non va in vacanza, vado in vacanza io, faccio buone vacanze agli altri, vabbè. Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle, il traffico. Allora, le 8:49 minuti, come concludere questa stagione di 24 mattino prima di riprendere il 31 agosto? Allora, come sapete, io qui tengo il conto delle settimane decisive. Si chiude oggi la 116esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. E giustamente, mentre lo dicevo, un ascoltatore, Paolo, escavatorista, tutti i giorni ci scriveva: invece la mia sarà la prossima settimana decisiva, perché vado in pensione dopo quanti anni sull'escavatore. Paolo, buongiorno. Buongiorno. 60.000 ore di lavoro. 60.000. Sì, 43 anni e 2 mesi. Porca miseria, 43 anni e 2 mesi e ci siamo, Paolo. Sì, ci siamo. Settimana prossima. Il 31 luglio concludo la mia vita lavorativa. Ma dove sei in questo momento? Cielo. Sull'escavatore? Sì, stamattina sto usando un mini escavatore, perché il mio, quello che usavo prima, è in riparazione. Siamo qui sulla Romonza, abbiamo fatto, sai, tutte quelle varianti della Romonza. Abbiamo fatto due anni fa la 9, la terza corsia della 9, un po' di lavori. Cerchiamo di capire, cari ascoltatori, Paolo è una di quelle persone che si vedono quando si sfreccia, si passa sulle strade, sulle autostrade, che sono con il casco, il giubbotto catarifrangente, eccetera, che sistemano le nostre strade. E tutte le volte, diciamolo francamente, molti di noi quando passano dicono, Paolo, lo dicono, questo sì che è un lavoro a 40 gradi sotto il sole, l'asfalto, il cemento. Raccontaci l'Italia vista da un escavatore, Paolo. Insomma, tante belle cose, a volte mi è dispiaciuto veramente affondare la benna in certi terreni, a volte sono stati degli scempi inutili. Però purtroppo quando vai a distruggere dei luoghi bellissimi per dei capricci magari di qualche amministrazione che sinceramente non servono a nulla. Cioè costruire strade magari passare su un prato, esatto, su delle campagne. Tante volte abbiamo invaso delle campagne per delle strade, sì, che poi dopo in fin dei conti le vedi utili, però. Oppure quando intervieni su lavori fatti da altre persone, ad esempio io ho lavorato tanti anni sugli argini dei fiumi, e andare a ripristinare argini con soldi già spesi, ripristinare argini perché erano stati fatti male. E avere la soddisfazione di vedere che mentre tu stai lavorando arriva una piena, ti porta via tutta la terra che tu avevi accumulato per mettere in piedi queste pietre, però le pietre rimangono su, quindi vuol dire che il lavoro l'hai fatto bene. Paolo, però è fantastico. È fantastico, 60.000 ore di lavoro. Ma è vero che ti dispiace un po' andare in pensione la settimana prossima? Sì, perché guarda, io ti dico la verità, noi italiani, quando lavoriamo bene, ci innamoriamo del nostro lavoro. Io penso di dire il pensiero un po' di tutti, perché veramente. E poi, dai, devo dirti la verità: da bambino che cosa ti regalano? La ruspa. La ruspa, il camion. E io sono un bambino realizzato al 100%. Ma Paolo, ma sei straordinario! Goditi la pensione, goditela, te la sei meritata tutta. 60.000 ore di lavoro, 40 anni e più sull'escavatore. Paolo, sei straordinario. Chiudo con te e con la nostra segreteria, o il meglio della nostra segreteria di quest'anno.